Ciao a tutte. E a proposito del ciclo di incontri di autoformazione femminista, i puntini sulla organizzati dalle donne in cantiere, del cantiere sociale Versiliese di Viareggio, siamo in collegamento con Antonietta, una compagna femminista proprio delle donne in cantiere, e che vorremmo insomma che ci raccontasse la storia del loro gruppo, come è nato, che cosa fa, un po' di tutto, tutto quello che lei desidera e tutto quello che le viene in mente. Ciao Antonietta. Ciao Elisabetta, Ti passo la grazie. parola, il microfono è tutto tuo. Grazie, sì, sottofondo sentite un po' di ringhiare di cani o abbaiare, purtroppo quelli non li faccio apposta, sono sicuro. Beh, non fa niente, fa ambiente. Dunque, noi come siamo partiti? Beh, alla fine del 2013 io ero in uno scoramento generale, politico, personale, e così andai a trovare un'amica carissima e le proposi di iniziare corso, però non più misto, fino ad allora avevamo militato in gruppi misti. Ma solo femminismo, materialista ovviamente, perché proveniamo da lì noi, e lotta di classe. Questa amica carissima, Cinzia, che adesso non c'è più, lei è anarchica, io comunista, ci siamo subito So, resamente. Antonietta, Sì? so che avete dedicato questo ciclo di incontri a Cinzia e a Serena, A Serena, infatti. sì, le due grandi compagne che non ci sono più adesso. E così volevamo riprendere il cammino insieme alle altre donne. Volevamo prenderci cura di noi e lo volevamo fare appunto solo con le donne, proprio per rompere quell'isolamento che è sempre la base su cui il patriarcato ha costruito il suo controllo. Però dovevamo ritornare sui nostri passi, anche per ripeterli, ma soprattutto per individuare nuovi cammini. Bisognava ripartire, ricominciare il viaggio, che non è sempre così facile, insomma. Eh no. E poi anche perché, come vediamo, bisogna sempre ripartire da capo. Si va avanti per un periodo, magari in modo ottimistico, in modo sereno, e poi dopo ci ricrolla tutto addosso. Ma comunque, noi ripartiamo sempre da capo. Lo che c'è è una stanza al cantiere sociale, una stanza tutta per noi, dietro consiglio della Virginia Woolf, Certo. Sì, ho detto. stato un grande fermento. Il cantiere è pieno di associazioni, tutti erano molto interessati, e allora sono venute anche molte donne, però come sempre, piano piano, forse anche perché noi non eravamo così preparate, abbiamo messo tutta la nostra buona volontà, però piano piano molte donne hanno di nuovo preferito fare politica nel misto, perché appunto questa era la nostra richiesta, stare fra noi, fare tutti gli avvenimenti politici, però volevamo fare queste donne. Radicale veramente prezioso. Poi con lei abbiamo conosciuto anche voi, la coordinamenta, compagnia di Milano, di Pisa, di Parma, di Genova. Ecco, e tutto allora ci è sembrato veramente più chiaro e coinvolgente. e non abbiamo avuto più timori, a parte quelli oggettivi, insomma, che sono sempre. Io vi ringrazio pubblicamente per questa linfa vitale che avete immesso nelle nostre radici. Che bello! Ed è tutto, insomma, continuiamo questo cammino, lo facciamo insieme a voi, questo è importantissimo. Noi vi ringraziamo tantissimo per questo ciclo che avete impostato, perché sentiamo che è un momento molto importante di confronto, di riorganizzazione delle idee, di chiarezza politica, e in questo momento storico ci vuole proprio. Vi siamo molto grate di aver impostato questa cosa, che sicuramente sarà faticosa, ed è di solito quando una si fa carico di un ciclo così lungo, poi pagherà anche prezzo in fatica non indifferente, quindi vi siamo molto grate per questo. Noi siamo grati a voi, sarete parte di questo ciclo. Certo, quindi ci vedremo prestissimo, noi siamo molto molto molto contente e abbiamo deciso anche di preparare del materiale per quando verremo su, e spero insomma che vi sia utile, ecco, che sia utile a tutte e a tutte le donne che parteciperanno. Grazie Antonietta, tantissime grazie a te, alle compagne, e quindi ci vedremo presto. Noi ci sentiamo voi. Grazie, a presto.